Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di imprese, di aziende, di logiche, di strategie aziendali con Angelo Pasquarella. Buonasera, dottor Pasquarella. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Angelo Pasquarella è stato direttore generale di IRSA, l'Istituto di Evaluazione dell'ANIA, l'Associazione Nazionale di Imprese e Assicurazioni per la ricerca e lo sviluppo dei processi innovativi e attualmente amministratore di Progetti Italia, una startup che nella sua mission ha l'obiettivo di promuovere la costituzione di nuove imprese con caratteristiche innovative, e ha scritto un libro che si intitola Il Quinto Stato. Ora, il Quinto Stato non lascia presagire che si parli di imprese. Come mai questo titolo, dottor Pasquarella? Perché diciamo che in tutte le epoche c'è stato una classe, un gruppo sociale che ha trainato, diciamo così, lo sviluppo, oppure che ha rappresentato quelli che sono gli ideali o i momenti tipici di quel determinato periodo. Allora noi possiamo immaginare la nobiltà, poi il clero, la borghesia, il quarto stato, che appunto tutti ricordiamo il dipinto di Pellizza da Volpedo, ma oggi, no? Tutte queste figure, queste forze sono ancora presenti e sono ancora le forze trainanti della società? Ecco, io penso proprio che non è più così e che quindi sta sorgendo questo nuovo quinto stato che sarà il futuro punto di riferimento, diciamo così, dal punto di vista sociale e anche economico. Ecco, lei per la sua premessa ricorda una canzone di Iannacci che noi di una certa età ricordiamo, mi pare che si chiamasse Prete di Prando, e dice che trattava appunto di una cosa che a medievale vale e che non bisogna fare la fine di quelli che, pur essendo testimoni di fatti importantissimi e determinanti dell'avvertire della civiltà, neanche se ne accorgono. Allora siamo di fronte a dei cambiamenti epocali e rischiamo di non accorgercene, e lei si suona un po' la campanella. Cosa sta succedendo? Dal punto di vista economico noi stiamo passando dalla società industriale alla società post-industriale. Che cosa significa? Significa che il valore che è piazzato all'interno delle merci per la sua gran parte è rappresentato da valore immateriale, cioè da valore che deriva dalla ricerca, dallo sviluppo, dal marketing, dalla capacità di proporre, di innovare, eccetera. Mentre la parte materiale, che era tipicamente all'Ottocento, era la parte fondamentale, no? Era quella che assorbiva la gran parte del lavoro, del valore. Oggi il valore è proprio dato da qualcosa di immateriale, e questo segna il passaggio dalla civiltà delle cose, diciamo così, alla civiltà del bit, della società dell'atomo alla società del bit, e quindi a una società che, diciamo così, non ha più come punto di riferimento gli elementi materiali, bensì questi elementi immateriali. Ecco, ma questo comporta il fatto non solo che cambi appunto la realtà esterna, in cui abbiamo molto più bisogno di servizi, di cose, di un'economia della conoscenza, un'economia dell'informazione, ma cambia anche all'interno delle aziende, cambia anche il modo di produrre le cose vecchie. Lei parla proprio, come sottotitolo del libro, l'irresistibile ascesa del knowledge worker nelle aziende, cioè del lavoratore della conoscenza. Esatto, ed è proprio questo il punto, ed è proprio questo anche il discorso riferito a Iannacci, cioè la mentalità delle persone, ma di tutti noi, ma questa è una cosa normale, e i sociologi lo chiamano cultural gap, il fatto cioè che in un determinato momento storico le persone continuano a ragionare con degli schemi di riferimento che non sono più adeguati a una realtà nuova, no? Ed è questo proprio il problema, e le aziende spesso e volentieri continuano a gestire questi nuovi lavoratori, i lavoratori della conoscenza, un po' con gli stessi modelli, sia dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista giuridico, contrattuale, di inquadramento, cioè, ma anche e soprattutto dal punto di vista comportamentale, nella modalità con la quale praticamente gestivano i vecchi operatori che erano legati alla materia. Ecco, quindi c'è anche un nuovo modo di avvicinare il mondo del lavoro, di avvicinarsi al mondo del lavoro. Lei cosa consiglierebbe a un giovane che vuole avvicinarsi alla realtà di un'azienda? Dunque, si parla tanto di precariato. A mio parere il problema oggi fondamentale è la precarietà delle competenze e delle conoscenze, non è la precarietà dei contratti. La gran parte delle persone che hanno in passato, no? Che abbiamo visto tutti quanti, no? Le persone che salivano sui tetti, le grandi proteste, eccetera. Gran parte di questi non erano precari, erano assolutamente inquadrati con dei contratti di lungo periodo, erano inquadrati magari con dei contratti a tempo indeterminato. La verità è che nelle trasformazioni che noi stiamo vivendo oggi è facile finire fuori mercato se l'operatore non è continuamente adeguato come competenze e come conoscenze a realtà sempre in evoluzione, sempre nuove. Cioè si parla oggi di formazione continua, no? E la formazione continua altro non è che proprio questo, cioè l'adeguamento delle competenze, l'uscire dalla precarietà della competenza. Questo è il punto. Ecco, lei intitola proprio uno dei capitoli del libro La cultura del posto, criticando un po' questa cultura del posto, che è una cultura della dipendenza, quindi una cultura che si aspetta qualcosa dagli altri, che si aspetta che solo il rispettare le procedure possa in fondo completare la missione lavorativa. E c'è un box in questo capitolo in cui si parla del paradosso del se vuoi lavorare per molto tempo devi rinunciare al posto di lavoro. È vero, perché quello che deve fare il giovane è investire sulla sua crescita professionale, quindi se dovesse scegliere un posto, deve scegliere il posto di lavoro che gli dà più probabilità di apprendere cose che naturalmente siano spendibili sul mercato, di fronte a un posto sicuro, no? Ma che ti offre un'attività ripetitiva, sostanzialmente legata a delle prassi operative facilmente sostituibili. Diciamo che il giovane dovrebbe orientarsi invece verso un posto che dia magari più precarietà, ma che grandi opportunità di apprendimento, perché alla fin fine queste sono quelle che pagano e saranno per giunta maggiormente richieste anche dalle stesse imprese che vogliono inquadrare la persona come dipendente. Ecco. Quindi paradossalmente se voglio non essere dipendente devo ragionare come un imprenditore. Ma questo è un paradosso, perché poi nella realtà concreta in molte imprese vale di più la fedeltà al capo, un certo servilismo magari, che non la capacità. Ecco, questo è appunto un retaggio che noi ci portiamo dietro dalla vecchia logica, perché nella vecchia logica, siccome sostanzialmente le risorse erano tra loro abbastanza facilmente diciamo così intercambiabili, il fatto di essere un po' servili, insomma, di sostanzialmente rispettare per filo e per segno regole, meccanismi eccetera eccetera, aziendali eccetera eccetera, questo diventava premiante, perché in realtà una persona poteva essere facilmente sostituita con un'altra, e quindi qual era la distinzione? Oggi, dove tutta l'azienda, ma anche tutta la società, sta orientandosi verso prestazioni di eccellenza, quindi che finiscono col premiare l'apporto dell'individuo, no? Dell'individuo all'interno di un determinato contesto, è chiaro, rende questo individuo più difficilmente sostituibile. Certo, anche perché lei ricorda nel libro che l'eccellenza non si ottiene sommando tante mediocrità. E quindi alla fine, esatto, poi esatto, i risultati si vedono. Esatto, è proprio questo il punto. Quindi la spinta verso l'eccellenza porta necessariamente anche da parte delle imprese a non premiare più l'aspetto legato alla fedeltà piuttosto che altre cose, quanto piuttosto a premiare che cosa? I risultati attesi, cioè i risultati di una determinata operazione. Scrivendo questo libro, lei pensava più all'imprenditore o più al lavoratore? Per la verità a tutti e due, perché in realtà se noi vogliamo, diciamo così, uscire da questa situazione che può apparire come una situazione di stallo, sia i lavoratori devono uscire dalla mentalità della cultura della dipendenza, la cultura del posto, dove sostanzialmente il problema non è più mio, il problema è diventato di un altro, la cosa importante è che io abbia un contratto, poi sono fatti suoi, cioè del datore di lavoro, se ci sono dei problemi, delle crisi o dei momenti di difficoltà, e anche però della cultura del datore di lavoro, perché spesso e volentieri questa nuova mentalità comporta per il datore di lavoro la messa in discussione di se stesso, perché la gestione tipo gerarchico, burocratico del padrone delle ferriere di una volta non sta più in piedi con questa nuova logica. Ecco, in questa logica, allora, concludendo, se dovessimo dare un voto all'Italia tra 1 e 10, che voto le darebbe? Io non lo so, però devo dire che ci sono anche delle realtà, soprattutto realtà piccole, che funzionano molto bene in questa direzione, nella direzione descritta dal libro. E quindi possiamo essere fiduciosi. Elementi di eccellenza ce ne sono, però onestamente diciamo che la massa, purtroppo sia dal punto di vista degli imprenditori che dal punto di vista dei datori di lavoro, non è altissima la media, insomma, diciamo così. Possiamo dire un 6? Un 6 sulla fiducia. 5,5. Allora invitiamo tutti a leggere il libro di Angelo Pasquarella, che ringraziamo, Il quinto stato, ovvero l'irresistibile ascesa del knowledge worker nelle aziende, edito da Guerini e Associati, sono 250 pagine, è un libro ricco di paradossi e quindi si legge anche con facilità e anche con un po' di ironia, costa 26 euro, ma è un investimento per chi vuol capire dove stiamo andando a livello di imprese, di logiche aziendali, di strategie al di fuori dei vecchi stereotipi e delle vecchie ideologie. Grazie ad Angelo Pasquarella, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per settimana prossima.